Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di dollaro, di petrolio, soprattutto della decisione dell'OPEC, dei paesi produttori di petrolio, di tagliare di oltre 2 milioni di barili la produzione giornaliera, ma nonostante questo il greggio sui mercati internazionali ha fatto segnare una nuova caduta scendendo sotto i 40 dollari. Quindi siamo in una fase di turbolenza negativa sotto un certo punto di vista, positiva ovviamente per i consumatori che vedono scendere anche i prezzi dei prodotti petroliferi, prodotti che usiamo tutti i giorni. Di questo oggi parliamo con Davide Tabarelli. Buongiorno Tabarelli. Buongiorno. Tabarelli è docente all'Università di Bologna, direttore del Centro di Ricerca e Nomisma Energia, editorialista sul Sole 24 Ore. Proprio sul Sole 24 Ore di oggi c'è un suo articolo: dal greggio un anticipo di deflazione. Il greggio sta appunto, come dicevo, perdendo quota come prezzo, questo soprattutto per il forte calo della domanda causato dalla crisi economica, che soprattutto negli Stati Uniti sta rallentando fortemente i consumi. Ecco Tabarelli, siamo scesi sotto i 40 dollari, pochi mesi fa eravamo a un prezzo che era tre volte tanto, anzi di più, era quasi a 150 dollari. Allora si diceva, e lei stesso aveva detto, sono prezzi fuori dalla realtà, però che si scendesse così in basso forse era quasi impossibile prevederlo, quindi questo è un segnale non del tutto positivo, Tabarelli. Solo in poche settimane, ecco, l'intensità della caduta è straordinaria. Era stato sorprendente, anche quello impossibile da prevedere, la salita prima a 50, 70, 90, 100, 120, 150. Ecco, quello era stata la grande sorpresa. Che tornasse indietro ci si poteva aspettare, ma insomma verso i 70 nel lunghissimo termine, ecco, del 2010, che poi potesse crollare a 40 nell'arco di poche settimane era impossibile. Questo testimonia il crollo finanziario di New York, degli Stati Uniti. Sottolineo sempre gli Stati Uniti, New York, perché è lì che si forma il prezzo del greggio, che poi dopo va a determinare i prezzi dell'energia di tutto il mondo, ma è a New York che c'è questa vicinanza fisica fra la borsa termine di New York e gli investitori, che sono quelli che hanno condizionato al rialzo e adesso al ribasso le dinamiche del prezzo del petrolio. Ecco, si era detto giustamente che i prezzi molto alti erano stati dovuti alla speculazione finanziaria, cioè al fatto che sul mercato del petrolio si erano riversati anche dei grandi massi di capitali e che il prezzo era determinato soprattutto dalla domanda dell'offerta di titoli rappresentativi del petrolio che non dal petrolio in realtà. Ora si può dire che il mercato sta tornando alla sua essenzialità, cioè ad essere un mercato basato sulle merci, quindi sullo scambio della domanda e dell'offerta, sul gioco della domanda e dell'offerta, sul bene reale petrolio, in cui la finanza ha un ruolo di secondo piano, Tabarelli. Ma questa è una speranza, però è ancora presto per dirlo, dopo 2-3 anni di turbolenze, di presenza massiccia di investitori, vabbè che uno di questi, uno molto importante, se n'è andato per forza, che era Lehman Brothers. E rimangono altri, sembra sì che ci sia maggiore legame con i fondamentali, questo è estremamente positivo. Ricordo che se dobbiamo tornare ai fondamentali, ricordo le medie di lungo termine del prezzo del greggio che è 30 dollari, ricordo i costi di produzione nel Medio Oriente che sono inferiori ai 5 dollari, ricordo che 10 anni fa in questi giorni, in piena recessione asiatica giapponese, eravamo a 12 dollari, perciò questi livelli non sono così bassi. Detto questo, è ancora presto, ripeto, non abbiamo alternativa al mercato termine di New York. I fondamentali in questi giorni sono estremamente negativi, in particolare negli Stati Uniti, ma il taglio che c'è stato da parte dell'OPEC, anche quello è di intensità mai vista e perciò sarebbe stato giustificato una leggera ripresa dei prezzi. Quello che è accaduto ieri, in sostanza, testimonia ancora una distanza dai fondamentali del mercato. Ecco, mentre ricordo gli ascoltatori, il numero verde 800 24 00 24, vorrei fare a Tabarelli una domanda che penso che tutti si rivolgano in questa fase. I prezzi della benzina stanno seguendo la discesa dei prezzi del petrolio oppure, come spesso si ritiene, quando i prezzi scendono c'è molta vischiosità e ci sono molte resistenze a far scendere i prezzi in misura sufficiente rispetto all'andamento del costo della materia prima? C'è un po' di vischiosità, c'è stata in particolare nei mesi scorsi, adesso i prezzi sono un po' più allineati, ci sarebbe un po' di margine ancora per ridurli di 2 centesimi di euro per litro sul gasolio, sulla benzina, però c'è stato un crollo dell'ordine del 30% rispetto ai picchi di quest'estate. È normale questa vischiosità per due ragioni. La prima è che le compagnie petrolifere stanno cercando di recuperare i bassi margini l'anno scorso quando facevano fatica a trasferire tutti gli aumenti alla pompa, e l'altro devono recuperare un po' di costi addizionali che ci sono stati, fra cui anche qualche forma un po' strana di tassazione. Ecco, indubbiamente non dimentichiamo che poi sulla benzina, sul costo alla pompa della benzina, gravano 2/3 di oneri fiscali che appunto in questo periodo non sono certo stati ridotti. Sentirei Bruno da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Proprio su questo tema la mia questione. Io mi ricordo che ho una 40 d'anni, mi ricordo che qualche decennio fa c'erano degli strumenti di controllo governativi per evitare che ci fossero cartelli o comunque aumenti dei prezzi al consumo indiscriminati. Volevo sapere se ci sono ancora queste forme di controllo, questi organismi di controllo, che potere effettivo hanno. E poi la benzina è aumentata nell'ultima settimana di 50 centesimi, perché insomma, poi chi viaggia come me lo sa, ed è una cosa decisamente strana, è decisamente strano che nessuno si accorga che lo fanno tutti nello stesso momento, e tutti con come dire, un delta veramente minimissimo. A me sembra veramente strano, non si possa parlare di cartello. Grazie. Grazie, beh, che la benzina sia aumentata non lo so, non mi sembra, dato che il prezzo del greggio è diminuito, quindi è diminuita anche il prezzo della benzina e del gasolio. Però Davide Tabarelli. Noi seguiamo tutte le settimane il prezzo della benzina sul nostro sito in maniera molto trasparente, quasi banale. Prendiamo il prezzo internazionale della benzina, non del greggio, perché nel serbatoio non mettiamo il greggio, ma mettiamo la benzina, perciò bisognerebbe prendere quello internazionale, questo prezzo spot, ci mettiamo sulle tasse e il margine lordo delle compagnie che in media negli ultimi 4 anni è intorno ai 15 centesimi. Questi 15 centesimi, si ripeto, su un prezzo di 1,1, di 110 centesimi, deve coprire tutto, i costi di distribuzione, stoccaggio, gli investimenti sul punto vendite, il margine al gestore, quello che ci fa materialmente la benzina, e poi i tanto amati bollini da parte dei consumatori. Ecco, sono questi 15 centesimi. In questo periodo è 17 centesimi, ci sarebbe spazio per 2 centesimi in meno. A proposito di questo cartello, supposto cartello, guardi, da quando esiste l'industria petrolifera, cioè dalla fine del 1800, esiste sempre un'accusa di cartello alle compagnie petrolifere. Ovviamente quando c'era Rockefeller negli Stati Uniti all'inizio dello scorso secolo era molto motivato, infatti la Standard Oil of New Jersey fu separata in 11 società diverse, da cui nacque poi la Exxon. Ecco, adesso esistono continue accuse, il prezzo non può essere troppo diverso perché al netto delle tasse e tolto il prezzo internazionale rimangono quei 15 centesimi. Se una compagnia vuol fare un forte sconto lo fa di 6 centesimi, come sta accadendo adesso in alcuni punti vendita self-service, ma con 6 centesimi di sconto su 15 centesimi di margine lordo la compagnia è in perdita. Ecco, quindi sì, prego, Tabarelli. Una volta esistevano forme di controllo, ma esistevano prezzi amministrati, cioè esisteva il CIP che fissava i prezzi ogni settimana in base ai prezzi internazionali, e sono quelle forme di amministrazione pubblica dei mercati dell'energia che abbiamo lasciato al passato perché crediamo nella libera iniziativa, nella libertà, nelle liberalizzazioni, e pertanto sarebbe un tornare indietro di parecchi anni se volessimo reintrodurre le tariffe. Questo tema, Giuseppe da Brescia, buongiorno. Buongiorno, io non sono per niente d'accordo con il signore Tabarelli. per in quanto il cartello esiste, ci sono le associazioni dei petrolieri che si ritrovano di tanto in tanto e stabiliscono i prezzi. Io ne sono testimone perché venivo da quel settore. Esistono tutt'oggi. E poi un'altra cosa che volevo dire in merito ai prezzi, oggi l'euro è forse ritornato ai livelli che era quest'estate, 1,47-1,48. Il dollaro, il greggio costa molto meno di quello che costava 2-3 anni fa, siamo sotto dei 40 dollari, e i margini per le riduzioni ci sono. È vero che non, una volta venivano amministrati i prezzi dal CIP, ma io come azionista Eni, io non ho bisogno che vengano riamministrati, ma ho un faro che è l'AGIP. L'AGIP è un'azienda di Stato, io come azionista Eni, a me degli utili a fine anno non è che mi interessa molto poco. Se invece mi dessero la possibilità, come azienda di Stato, non devono fare i grandi guadagni perché non possono tranquillamente ridurre i prezzi a vantaggio del consumatore, visto che è un'azienda di Stato, e farebbe da faro per tutte le altre compagnie. Ma questo non è possibile farlo, sa perché? Perché l'AGIP è diventata una di quelle aziende, come l'Eni, dove è un parcheggio di parapolitici. Ecco, quindi la ringrazio, adesso stiamo sconfidando un po' della politica e delle accuse, però ecco, da parte di un azionista Eni che dica che la sua azienda non importa che faccia utili, ma che faccia un po' di beneficenza riducendo i prezzi, riducendo gli utili, è certamente forse significativo, però io penso che un azionista deve anche pensare che la propria azienda deve appunto fare utili facendo dei prezzi giusti, facendo dei prezzi giusti che diano la giusta remunerazione, non certo speculando, non certo mettendosi sul mercato facendo operazioni poco chiare. Davide Tabarelli, rapidamente prima di lasciare spazio al traffico. Cartello, se ci fosse, ci sono degli organi antitrust che indagano, devono intervenire, c'è Mister Prezzi, c'è l'autorità garante della concorrenza del mercato che è già intervenuta 3 volte sul settore, è illegale fare cartello e mettersi d'accordo per fissare i prezzi, questo non è possibile, è vietato dalla legge, e pertanto se c'è qualcuno che crede che ci siano dei cartelli deve andarlo a denunciare subito. E pertanto questo secondo me non esiste questa cosa. Circa la società Eni, che non esiste più l'AGIP, esiste il cane a 6 zampe, è vero quello che ha detto l'ascoltatore, non è di Stato, è posseduta dallo Stato per il 30%, esiste il resto che è quotato in borsa, esistono tanti azionisti e il loro interesse è quello del profitto, del rendimento per aumentare il valore delle azioni a fine anno o gli anni prossimi. Però detto questo, questa compagnia che è stata citata è quella che fa gli sconti più aggressivi in questo periodo e ci perde sulla distribuzione, queste perdite possono essere compensate dal fatto che ci guadagna negli altri settori, in particolare nella produzione di greggio. Stiamo con Davide Tabarelli, docente all'Università di Bologna, direttore del centro di ricerca Nomisma Energia, parliamo di petrolio, parliamo di prezzi della benzina, un argomento molto sentito anche a giudicare dagli sms che stanno arrivando al 349-238-6666, alcuni ci chiedono ma ancora come mai il prezzo della benzina scende meno di quanto scende il prezzo del petrolio, lo ricordiamo ancora una volta, il prezzo della benzina è in parte per il 60-70% in tasse che non scendono, quella parte che scende è solo una parte limitata, un quarto o poco più del prezzo della benzina, e quindi è chiaro che ci sono queste differenze tra il prezzo del petrolio, il calo del prezzo del petrolio e il calo del prezzo della benzina alla pompa. Sentirei Pasquale da Napoli, buongiorno. Buongiorno, la mia osservazione fa riferimento esclusivamente alla relazione che c'è tra il prezzo del petrolio e la sua quotazione in dollari, per cui ritengo che questa quotazione incorpori anche la svalutazione del dollaro stesso, e notiamo che ogni qualvolta il dollaro perde potere d'acquisto nei confronti dell'euro, sostanzialmente il prezzo del petrolio comincia a crescere. Visto che in questi giorni si è riverificata una improvvisa fiammata di svalutazione del dollaro rispetto all'euro, passando in meno di un mese da circa 1,27, 1,30 ad 1,42-1,43, non conosco la quotazione di oggi, ritengo che il movimento, indipendentemente dalle medie storiche a cui prima si faceva riferimento, è largamente influenzato da questa componente. Volevo sapere appunto il professore che opinione ha in merito. Grazie, giro subito la domanda a Tabarelli. Indubbiamente il dollaro è ancora la moneta di riferimento per il mercato petrolifero. Tabarelli. Sì, lo sarà per molto tempo, come lo è stato per tutta la storia, se speculare di questa industria, cioè l'industria era fatta di americani con il loro dollaro, la gran parte del petrolio consumato, esportato, negoziato viene dal Medio Oriente, e i sauditi vogliono sempre essere pagati in dollari, non ci sarà cambiamento probabilmente in futuro. L'anno scorso c'è stata una forte svalutazione del dollaro, se non fosse stato per l'euro forte avremmo pagato la benzina non 1,5 come è stato il massimo lo scorso luglio, ma anche 1,7. La nostra bilancia dei pagamenti sarebbe stata col deficit energetico molto peggiore quest'anno. E il ribasso che c'è stato del prezzo internazionale del petrolio è stato trasferito solo parzialmente al consumatore italiano, ma ripeto, c'è stato un 40 centesimi in meno al litro, poteva essere un po' di più se non fosse stato un po' per la forza del dollaro che si è un po' ripreso, adesso si è di nuovo indebolito, ecco. Ci sono queste variazioni che attenuano per noi l'impatto o lo peggiorano, dipende dai periodi, alla pompa, però complessivamente nell'ultima crisi che c'è stata negli ultimi 3 anni di forte aumento, meno male che c'è stato l'euro che ci ha compensato un po'. Ecco, ci sono anche molte domande sul fronte del mercato della benzina, della liberalizzazione del mercato che procede un po' a rilento, sul fatto che per esempio in Italia siano molto poche le pompe di benzina nei supermercati, nelle grandi aree commerciali, che invece per esempio in Francia presentano delle possibilità di risparmio per chi acquista benzina in queste aree abbastanza significative. Tabarelli, in Italia la liberalizzazione si è predicata ma forse si è attuata un po' a rilento. Sì, è più di 30 anni che stiamo cercando di liberalizzare, quando togliemmo il regime di concessione nei primi anni 70. È bello parlare della Francia e della Gran Bretagna, gli unici due casi dove c'è stato un massiccio, una massiccia entrata della grande distribuzione degli ipermercati, dove è bello andare a fare un pieno e pagare la benzina 10 centesimi anche in meno di quello delle altre pompe. Tuttavia, ripeto, solo in due paesi c'è stata questa grande entrata, il resto d'Europa non c'è stata, e occorre poi ricordare che in Francia occorre fare spesso 50 chilometri per trovare un distributore, chi va in Francia in macchina sa benissimo che corre il rischio di rimanere senza benzina perché c'è la desertificazione. Certo, dobbiamo ricordare questa possibilità, ma allo stesso tempo anche le conseguenze negative. Gli italiani amano essere serviti sotto casa, abbiamo un parco auto diverso, dobbiamo fare frequenti rifornimenti, abbiamo 10 milioni di moto, amiamo poi essere serviti e soprattutto noi parliamo tanto di liberalizzazione ma non riusciamo ad esempio a liberalizzare gli orari o a lasciare che sui distributori si venda di tutto, dai tabacchi ai giornali al latte, in maniera tale che su questi prodotti venga scaricato un po' di margine che invece attualmente grava sul prezzo della benzina. Ecco, ci sono anche altri prodotti che interessano gli automobilisti, in particolare il metano per auto. C'è un ascoltatore che ci chiede come mai il metano per auto continua a salire di prezzo, mentre il prezzo del petrolio e quindi anche delle altre fonti correlate sembrano diminuire. Ci sono delle particolari dinamiche per questi prodotti, Tabarelli? Sì, perché i prezzi del metano nella distribuzione italiana, che il grosso del metano viene consumato soprattutto nel riscaldamento, nella generazione elettrica, nell'industria, ha delle formule di calcolo, il prezzo, che si basano sulle medie dei prodotti petroliferi, medie calcolate su 6, 3, 6, 9 mesi addirittura. E questo prezzo alla pompa del gas metano segue queste dinamiche. L'ascoltatore ha ragione a dire che adesso continua a salire, ma continua a salire perché sta riflettendo ancora gli aumenti dei prezzi del petrolio dei mesi scorsi. Ma nei mesi scorsi il prezzo del metano non è certo salito come il prezzo della benzina, perciò i benefici che ha avuto in passato non possono essere anche adesso degli altri benefici, insomma ha più stabilità nel prezzo nell'arco di un lungo periodo e pertanto adesso i prezzi non possono scendere o scenderanno nei prossimi mesi ma molto lentamente. Ecco, Tabarelli, siamo quasi in conclusione, vorrei dare lo spazio ad altre telefonate ma non ne abbiamo veramente il tempo. Io vorrei ricordare però in un minuto come è composto poi il prezzo della benzina alla fonte, perché appunto le domande su questo sono molto forti. Allora ricordiamolo proprio sinteticamente come è composto, allora, il prezzo della benzina. Guardi, Noi abbiamo calcolato il nostro prezzo ottimale lo scorso weekend, che è, lo scorso martedì, che è solo un centesimo in meno da quello effettivo, è composto da 22 centesimi di prezzo industriale, che quello è il prezzo internazionale della benzina, cioè se un grande ipermercato va a comprarsi la benzina lo paga 22 centesimi. Poi abbiamo un margine lordo a copertura di tutti i costi di distribuzione di 14 centesimi, abbiamo l'accisa che è ferma sempre a 56 centesimi e l'IVA calcolata su tutto quello che ho detto prima che è 18 centesimi, perciò abbiamo le tasse che contano per di più di 70 centesimi su un prezzo che è vicino a 1,1 euro per litro. Ecco, quindi abbiamo una tassazione che è appunto il 70%, che sì, magari è in percentuale e quindi risente anche questa del prezzo, che comunque questa tassazione ovviamente resta una componente fondamentale del prezzo, anzi la principale componente del prezzo finale della benzina. Ecco, su tanti elementi abbiamo cercato in questa trasmissione di fare un po' di chiarezza su questi elementi. Io ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito, anche quelli che polemicamente hanno contestato sia per telefono sia con i messaggi SMS anche queste posizioni. Ringrazio Davide Tabarelli, docente dell'Università di Bologna, direttore del Centro di Ricerca e Nomisma Energia, editorialista del Sole 24 Ore. L'appuntamento è per domani.